Ciao, sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Nel godere si va lenti. Nell'agire si va in fretta. Graziano. Con le palle. Questo è il cammin de Gigi D'Agostino. Mica non sciolè. Gigi, ti stiamo ascoltando e ci piaci sempre di più. Ci metti ginnastica mentale, per favore? Ovvio. Un bacio dalle ragazze di Settimo Torinese. Un saluto dai marinai del 14° corso VFB di Roma. Ci dedichi ginnastica mentale? Sì. Vorrei dedicare ginnastica mentale a Chico e Roby. Dade. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, fatico, Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino.

capisce un po' sta musica. Siamo Alessio e Matteo di Collegno. Ieri abbiamo compiuto 19 e 18 anni. Yippee! Puoi regalarci Son. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. Che mondo è? Che storia è? Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. Regalami il remix della canzone di Jar. Didus da Venezia. D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Ti amo, sono per tutto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. D'Agostino suona Latina. È un evento, già lo sento. Discoteca 24.000 baci. Ci vediamo lì. L'impulso, mi scrivi, se no. Oggi, 16 dicembre 2006, è il compleanno della mia dolce Elisa. Volevo farle i miei più cari auguri dedicandole amore elettronico. Piero.

la verità, ma perdona l'errore. Voltaire. Gigi D'Agostino. Vabbè, c'è tu. Sono Dido. Volevo dedicare Music a una certa Elena, perché so che le piace tanto. Yes. E piace molto anche a me. Ce la fai riascoltare? Viaggio incontaminato.